Costeggiando grossi furgoni sulla riva Sir John Rogerson, Mr. Bloom camminò posatamente oltre Owen Mill Lane, la ditta Liesk, produttrice d'olio di semi, l'ufficio delle poste telegrafi. Avrei potuto dare quell'indirizzo anche. E oltre la casa di riposo dei marinai. Si staccò dai rumori mattutini del lungo fiume e imboccò Lime Street. Presso le case popolari di Brady, un garzone di conceria indugiava, con la secchia dei cascami al braccio, fumando una cicca masticata. Una bambinetta coi segni di un eczema sulla fronte l'occhieggiava reggendo incurante il suo malconcio cerchione di botte. Dirgli che se fuma non crescerà. Ma fumi pure. La sua vita non è poi un letto di rose. Aspettare fuori delle osterie per riportare papà a casa. Torna a casa da mamma, papà. Ora morta. Non ci sarà molta gente. Attraversò Townsend Street, oltrepassò il volto accigliato della cappella di Bethel. El, sì, casa di Aleph Beth. E oltre Nicol, l'impresario di pompe funebri. Alle 11 è. C'è tempo. Scommetto che Corny Keller si è accaparrato questo affare per Onia. Canta con gli occhi chiusi. Melenso. Ho incontrato giù nel parco una ragazza, là, nel rezzo. Che sollazzo. Pizzardone. Diede allora il suo nome e l'indirizzo con il mio trallallero trallallà. Certo se l'è accaparrato. Seppellirlo a buon mercato. In un, come si chiama? Con il mio trallallero trallallero trallallero trallallà. In Westland Row si fermò davanti alla vetrina della Belfast and Oriental Tea Company e lesse l'etichetta dei pacchetti di stagnola. Miscela scelta, qualità sopraffina, miscela per famiglie. Piuttosto caldo. Tè, bisogna che ne prenda un po' da Tom Kernan. Non potrei chiederglielo al funerale, però. Mentre i suoi occhi seguitavano a leggere blandamente, si tolse quieto il cappello, inalando l'odore di brillantina, e si passò la mano con lenta grazia sulla fronte e sui capelli. Mattinata molto calda. Sotto le palpebre abbassate, i suoi occhi trovarono il fiocchetto sulla banda interna di cuoio del migliore dei cap. Proprio là. La destra scese nel cucuzzolo del cappello. Le dita trovarono subito un cartoncino infilato dietro la banda e lo trasferirono al taschino del panciotto. Che caldo! Fece scorrere la destra ancora una volta sulla fronte e sui capelli, poi si rimise il cappello con un senso di sollievo e lesse ancora, più lentamente. Miscela scelta, le più fini marche di Ceylon, l'estremo oriente. Bel posticino deve essere, giardino del mondo. Grandi foglie pigre da galleggiarci sopra, cactus, prati fioriti, liane serpentine le chiamano. Chissà se è proprio così. Quei singalesi che oziano al sole, in dolce far niente, non alzano un dito tutto il giorno. Dormono 6 mesi su 12. Troppo caldo per arrabbiarsi. Influsso del clima, letargo, fiori dell'ozio. Si nutrono d'aria, azoti, serra all'orto botanico, sensitive, ninfei, petali troppo stanchi per mal della nona nell'aria, camminare su petali di rosa, figurati un po' a mangiare trippa e zampetto di manzo. Dov'era quel tale che ho visto in fotografia da qualche parte? Ah, sì, nel Mar Morto, galleggiava sulla schiena, leggeva un libro con l'ombrello aperto. Neanche a volere si affonderebbe così densa di sale, perché il peso dell'acqua, no, il peso di un corpo nell'acqua è uguale al peso del, o è il volume che è uguale al peso. È una legge del genere, giù di lì. Vance al ginnasio faceva schioccare le dita insegnando. Corso di studi con lo schiocco. Ma cos'è poi il peso, quando si dice il peso? 32 piedi al secondo. Legge di gravità. Al secondo, cadono tutti al suolo. La terra è la forza di gravità della terra, ecco cos'è il peso. Si voltò e attraversò svagato la strada. Come camminava quella con le sue salsicce? Pressappoco così. Camminando, tirò fuori dalla tasca laterale il Freeman piegato, lo aprì, lo arrotolò a mo' di bacchetta e cominciò a batterlo sui pantaloni a ogni passo svagato. Aria di noncuranza, giusto una capatina. Al secondo, al secondo. Al secondo per ogni secondo, questo vuol dire. Dal marciapiede lanciò uno sguardo scrutatore attraverso la porta dell'ufficio postale. Ultima levata. Posta qui. Nessuno. Entriamo. Porse il cartoncino attraverso la grata d'ottone. Ci sono lettere per me? Chiese. Mentre la ragazza cercava nella casella, egli guardava il manifesto per il reclutamento con soldati di tutte le armi in parata e teneva la punta della sua bacchetta contro le narici, odorando la carta di giornale stampata di fresco. Nessuna risposta, probabilmente, spinto troppo in là l'ultima volta. La ragazza gli rese attraverso l'inferriata il suo biglietto con una lettera. La ringraziò e dette una rapida occhiata alla busta dattiloscritta. Henry Flower, esc. Fermo posta, ufficio postale, Westland Row, città. Comunque aveva risposto. Si infilò in tasca biglietto e lettera, passando in rassegna di nuovo i soldati in parata. Dov'è il reggimento del vecchio Tweedy? Soldato smesso. Ecco. Cappello di pelo d'orso e pennacchietto. No, è un granatiere. Polsini a punta. Ci siamo. Royal Dublin Fusiliers. Giubbe rosse. Troppo vistoso. Deve essere per questo che le donne gli vanno sempre dietro. L'uniforme. È la strada più facile a arruolarsi e fare gli esercizi in piazza d'armi. Lettera di Maud Gonne, perché di sera li levino da O'Connell Street. Una vergogna per la nostra capitale d'Irlanda. Il giornale di Griffith batte ora lo stesso tasto. Un esercito marcio di malattie venere. Impero britannico o impero briaconico? Né cotti né crudi sembrano, come ipnotizzati. Attenti! Segnare il passo. Sinist test. No, guè! Reggimento del re. Mai visto vestito da pompiere o da vigile urbano? Da massone sì. Uscì dall'ufficio e voltò a destra. Parlare. Come se servisse a aggiustare qualcosa. Infilò la mano nella tasca e l'indice si insinuò nella busta, aprendola a scatti. Le donne ci fanno molto caso? Non credo. Le dita tirarono fuori la lettera e fecero una palla della busta in tasca. Qualcosa attaccato con uno spillo, forse una foto. Capelli? No. McCoy, liberarsene al più presto. Mi porterebbe fuori di strada. Tremendo essere in compagnia quando. Salve, Bloom! Dove va di bello? Salve, McCoy! In nessun posto di preciso. Come va la salute? Benissimo. E lei? Sentire a campare, disse McCoy. Gli occhi puntati sulla cravatta nera e il vestito anche nero, chiese a voce bassa e rispettosa: C'è qualcosa? Nessun guaio, spero. Vedo che. No, no, disse Mr. Bloom. Il povero Dignam, sa, c'è il funerale oggi. Già, poveretto. Proprio così. A che ora? Una foto? No. Forse un distintivo. Le 11, rispose Mr. Bloom. Voglio vedere se mi riesce di farci una scappata, disse McCoy. Le 11, eh? Me l'han detto solo ieri sera. Chi è stato? Olola. Lo conosce? Hoppy lo zoppino. Sì. Mr. Bloom guardava dall'altra parte della strada, la carrozza ferma alla porta del Grosvenor. Il facchino issò la valigia sul poggiapiedi della vettura. Lei stava ferma, aspettava, mentre l'uomo, marito, fratello, le somiglia, cercava gli spiccioli in tasca. Soprabito elegante. Con quel bavero arrotondato, pesante per una giornata come oggi, sembra una stoffa da coperte. Posa noncurante di lei, ferma lì con le mani in quelle tasche appliqué, come quell'altezzosa creatura alla partita di polo. Le donne tengono alla classe finché non si tocca il punto. L'abito non fa il monaco, contegnosa, ma sta per cedere. L'onorevole signora, e Bruto è un uomo onorevole. possederla una volta le toglie l'amido. Ero con Bob Doran, è in uno dei suoi periodi di orge, e quell'altro, come si chiama? Bantam Lions, là da Conway eravamo. Doran Lions da Conway. La donna portò ai capelli una mano inguantata. Arrivò Hoppy a bere un goccetto. Tirando indietro la testa e guardando in distanza di sotto le ciglia abbassate, vide la lucida pelle di Dino splendere nel sole, treccioline ricamate. «Ci vedo bene oggi. Forse quest'aria umida allunga la vista. Parlando del più e del meno, mano da signora, da che parte salirà?» E quello disse: «Triste questa del nostro povero amico Paddy.» «Quale Paddy?» dissi. «Quel poverino di Paddy Dignam», disse lui. «Partenza per la campagna. Bradson, probabilmente. Stivaletti marrone con le stringhe penzoloni. Un bel piedino. Ma chi armeggia con quegli spiccioli? S'accorge che guardo. Sempre con l'occhio a qualcun altro. Ottima riserva. Due corde all'arco.» «Perché?» dissi. «Che gli è successo?» dissi. «Superba, ricca, calze di seta.» «Sì?» disse Mr. Bloom. Si scostò un poco dalla testa parlante di McCoy. «Salirà tra un minuto.» «Che gli è successo?» disse. «È morto!» disse. E parola mia, si riempì il bicchiere. «Paddy Dignam?» dissi. Non ci potevo credere quando l'ho sentito. Stavo con lui non più tardi di venerdì scorso, o giovedì, mi pare, all'Arch. «Sì», disse, «se n'è andato. È morto lunedì, poveretto.» «Guarda, guarda, barbaglio di seta, ricche calze bianche. Guarda.» Un pesante tramvai scampanellando si frappose. «Perduta. Ah, il diavolo il tuo naso rincagnato fragoroso. Si sente tagliato fuori. Paradiso e la Peri. Succede sempre così. Momento buono. Ragazza in quell'androne di Eustace Street. Lunedì, mi pare. Si aggiustava la giarrettiera. L'amica faceva da paravento alla mostra del Esprit de Corps. E allora? Che stai guardando?» «Sì, sì», disse Mr. Bloom, dopo un sospiro smorzato. «Un altro che se n'è andato. Uno dei migliori», disse McCoy. Il tram passò. Si dirigevano verso il ponte della circonvallazione. La ricca mano inguantata sulla maniglia d'acciaio. Brilla, brilla. Bagliore di merletti del suo cappello al sole. Brilla, brilla. «La moglie bene, spero», disse la voce di McCoy con un tono diverso. «Oh, sì», disse Mr. Bloom. «A meraviglia, grazie.» Srotolò la bacchetta del giornale oziosamente e oziosamente lesse: «Una casa cos'è se la pasta di carne Plumtree non c'è? Incompleta. Quando c'è, è una casa da re. La mia signora ha appena avuto una scrittura. L'affare non è ancora concluso, però. Ancora la storia delle valigie. Niente di male, comunque. Non ci casco, grazie.» Mr. Bloom volse gli occhi dalle grandi palpebre con placida amabilità. «Anche mia moglie», disse, «dovrà cantare una riunione molto chic alla Ulster Hall di Belfast il 25. «Ah sì?» disse McCoy. «Ne ho piacere, vecchio mio. Chi lo organizza?» «Mrs. Marion Bloom. Non è ancora alzata. La regina in camera mangia pane e... niente libri. Carte d'onori sporche lungo la coscia in file di sette. Donna bruna e uomo biondo. Gatto palla di pelo nero. Striscia strappata di busta. D'amor la dolce vecchia canzon. Viene d'amor la dolce.» «Una specie di tournée, capisce?» disse Mr. Bloom soprapensiero. «Dolce canzon. C'è un comitato organizzatore, con partecipazione alle spese e ai profitti.» McCoy annuì, tirandosi i baffetti irsuti. «Bene», disse, «questa è una bella notizia.» Fece l'atto di andarsene. «Allora son contento d'averla trovata sempre in gamba», disse. Ci si vedrà da qualche parte. Sì, disse Mr. Bloom. Ah, sento un po', disse McCoy. Le spiacerebbe lasciare il mio nome al funerale. Mi piacerebbe venirci, ma può anche darsi che non ce la faccia. C'è un caso d'annegamento a Sandy Cove che può capitare da un momento all'altro e io e il medico legale si dovrà andare laggiù se salta fuori il cadavere. Lei ci infili dentro il mio nome se non arrivo. Le spiace? Senz'altro, disse Mr. Bloom sulle mosse di andarsene. Stia pur sicuro. Benissimo, disse McCoy raggiante. Grazie, vecchio mio. Verrei se appena appena potessi. Bene, in gamba. Basterà mettere C.P. McCoy. Sarà fatto, rispose fermamente Mr. Bloom. Questa volta non mi ha preso che dormivo. Mano pronta. Punto debole. Mi piacerebbe quel pezzo. Per quella valigia ci vado matto. Cuoio. Angoli rinforzati, orli ribattuti, chiusura di sicurezza doppia. Bob Cowley gli prestò la sua per il concerto della regata di Wicklow l'anno scorso e non ne ha più sentito l'odore da quel dì. Mr. Bloom, passeggiando verso Brunswick Street, sorrideva. La mia signora ha appena avuto una... stridulo soprano lentigginoso. Naso da taccagna. Non c'è malaccio nel suo genere per una ballatella, ma non c'è nerbo. Io e te, sai, nella stessa barca. Lisciante. Ti dai i nervi, ecco. Ma non la sente lui la differenza? Mi pare che abbia tendenza in quel senso. Per me è come un contropelo, per così dire. Lo sapevo che Belfast gli avrebbe fatto colpo. Spero che il vaiolo non peggiori lassù. Mettiamo che lei non si voglia far vaccinare un'altra volta. Sua moglie e mia moglie. Che mi stia dietro? Mr. Bloom si fermò all'angolo, gli occhi vaganti sui cartelloni multicolori. Gazzosa di Cantrell e Cochrane, aromatica. Liquidazione estiva di Cléry. No, tira diritto. Olà, li ha stasera. Mrs. Bondman Palmer. Mi piacerebbe rivederla un'altra volta in quel lavoro. Ha fatto Amleto ieri sera, in veste di maschio. Forse era una donna. Perché Ofelia si è suicidata? Povero papà, come parlava volentieri di Kate Bateman in quella parte. Fece una coda d'un pomeriggio all'Adelphi a Londra per entrare. Fu l'anno prima che io nascessi, 65. E l'Aristori a Vienna? Qual è poi il nome giusto? Sì, è di Mosenthal. Forse Rachele? No. Quella scena, lui ne parlava sempre, dove il vecchio Abramo cieco riconosce la voce e gli mette le mani sulla faccia. La voce di Nathan, la voce del figlio. Sento la voce di Nathan che lasciò morire il padre di dolore e di infelicità tra le mie braccia. Che lasciò la casa del padre e lasciò il Dio del padre. Ogni parola è così profonda, Leopold. Povero papà. Povero uomo. Son contento che non entrai nella stanza a guardarlo in volto quel giorno. Ahimè, ahimè. Ma forse è stato meglio per lui. Mr. Bloom voltò l'angolo e passò accanto al posteggio delle ronze ciondolanti. È inutile pensarci più. È l'ora della biada. Vorrei non aver incontrato quel McCoy. Si avvicinò e udì un biascicar di avena dorata, denti dolcemente richiusi. I loro occhi tondi di cerbiatti lo guardavano mentre passava, di tra il dolce aroma venoso del piscio di cavallo. Il loro Eldorado. Poveri idioti. Che ne sanno? E che gli importa di tutto e di tutti, con quei nasoni infilati nel sacco della biada, troppo occupati per parlare. Eppure hanno da mangiare e da dormire. Castrati per giunta. Un mozzone di guttaperca nera che pende mencio tra le gambe. E chi ti dice che non siano contenti lo stesso, a quel modo? Sembrano delle brave, povere bestie. Eppure quel loro nitrito può essere parecchio fastidioso. Tirò fuori la lettera di tasca e la infilò dentro il giornale che portava. Potrei imbattermi proprio in lei qui. Il vicolo è più sicuro. Oltrepassò il rifugio del vetturino. Curiosa la vita di questi fiaccherai alla deriva, con tutti i tempi, in tutti i posti, a ore o finché dura, senza una loro volontà. Voglio e non. Vorrei dargli una sigaretta qualche volta. Socievoli. Berciano qualche sillaba a volo nel passare. Canticchiò. La ci darem la mano, la la la la la la.